L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Settima puntata. Le incatenate dell'Isola del Pianto. Lettura poetica di Alberto Lupo. Narratore Gianni Bonagura. Al largo della Scozia, in riva all'isola di Ebuda, emergeva dal mare ogni mattino un mostro e divorava una fanciulla. Per risparmiare le proprie figlie, gli isolani s'erano fatti corsari e razziavano ragazze sulle coste intorno. Ogni mattina ne legavano una ad uno scoglio, perché l'orca marina si saziasse e li lasciasse in pace. La bella Angelica era capitata in mano loro e adesso è là, ignuda e incatenata. La sua sorte pare ormai segnata quando vede volare per il cielo un guerriero su un cavallo con le ali. È Ruggero sull'ippogrifo. E vide Ibernia fabulosa, dove il santo vecchiarel fece la cava, in che tanta mercè par che si truove, che l'uom vi purga ogni sua colpa prava. Quindi poi sopra il mare il destrier muove, laddove la minor Bretagna lava. E nel passar vide, mirando a basso, Angelica legata al nudo sasso. Al nudo sasso, all'isola del pianto. Che l'isola del pianto era nomata quella che da crudele e fiera tanto ed in umana gente era abitata, che come io vi dicea sopra nel canto, per vari liti sparsa iva in armata tutte le belle donne depredando, per farne un mostro poi cibo nefando. Vi fu legata pur quella mattina, dove venia per trangugiarla viva quel smisurato mostro orca marina che di abborrevole esca si nutriva. Dissi di sopra come fu rapina di quei che la trovaro in sulla riva dormire al vecchio incantatore accanto, chi vi l'avea tirata per incanto. La fiera gente in ospitale, cruda, alla bestia crudel nel lito espose la bellissima donna, così ignuda come natura prima la compose. Un velo non ha pure, in che richiuda i bianchi gigli e le vermiglie rose, da non cader per luglio o per dicembre, di che son sparse le polite membre. Creduto avria che fosse statua finta, o d'alabastro, o d'altri marmi illustri, Ruggero, e sullo scoglio così avvinta per artificio di scultori industri, se non vedea la lacrima distinta tra fresche rose e candidi ligustri far rugiadose le crudette pome, e l'aura sventolar laurate chiome. E come nei begli occhi gli occhi affisse, della sua bradamante gli sovenne. Pietà e amore a un tempo lo trafisse, e di piangere appena si ritenne, e dolcemente alla donzella disse, poi che del suo destrier frenò le penne. O donna, degna sol della catena con chi i suoi servi amor legati mena, e ben di questo ed ogni male indegna, chi è quel crudel che con voler perverso d'importuno livor stringendo segna di queste belle man l'avorio terso? Forza è che a quel parlare ella divegna quale è di grana un bianco avorio asperso, di sé vedendo quelle parti ignude ch'ancor che belle sian, vergogna chiude. E coperto con man s'avrebbe il volto se non eran legate al duro sasso, ma del pianto ch'almen non l'era tolto, lo sparse e si sforzò di tener basso. E dopo alcun signozzi il parlar sciolto, incominciò con fioco suono e lasso. Ma non seguì, che dentro il fe restare il gran rumore che si sentì nel mare. Ecco apparir lo smisurato mostro, mezzo ascoso nell'onda e mezzo sorto. Come sospinto suol da borea o d'ostro venir lungo naviglio a pigliar porto, così ne viene al cibo che le mostro la bestia orrenda. e l'intervallo è corto. La donna è mezza morta di paura, né per conforto altrui si rassicura. Tenea rugger la lancia non in resta, ma sopra mano e percoteva l'orca. Altro non so che s'assimiglia a questa, c'una gran massa che s'aggiri e torca, né forma d'animal se non la testa, ca gli occhi e i denti fuor come di porca. Rugger in fronte la feria tra gli occhi, ma par che un ferro o un duro sasso tocchi. Poi che la prima botta poco vale, ritorna per far meglio la seconda. L'orca, che vede sotto le grandi ale l'ombra di qua e di là correr sull'onda, lascia la preda certa litorale, e quella vana segue furibonda. Dietro quella si volve e si raggira. Rugger giù cala e spessi colpi tira. Come d'alto venendo aquila suole, che rar fra l'erbe visto abbia la biscia, o che stia sopra un nudo sasso al sole, dove le spoglie d'oro abbella e liscia, non a salir da quel lato la vuole, onde la velenosa e soffia e striscia, ma da tergola adugna e batte i vanni, a ciò non se le volga e non la azzanni, così Rugger con l'asta e con la spada, non dove era de denti armato il muso, ma vuol che il colpo tra l'orecchie cada, or sulle schiene, or nella coda giuso. Se la fera si volta, e i muta strada, e da tempo giù cala e poggia in suso. Ma come sempre giunga in un di aspro, non può tagliar lo scoglio duro ed aspro. Simil battaglia fa la mosca audace contra il mastin nel polveroso agosto, o nel mese dinanzi o nel seguace, l'uno di spiche e l'altro pien di mosto. Negli occhi il punge nel grifo mordace, vola gli intorno e gli sta sempre accosto, e quel suonar fa spesso il dente asciutto, ma un tratto che gli arrivi appaga il tutto. Si forte ella nel mar batte la coda, che fa vicino al ciel l'acqua innalzare, tal che non sa se l'ale in aria snoda oppur se il suo destrier nuota nel mare. Gli è spesso che disia trovarsi a proda, che se lo sprazzo in tal modo ha a durare, teme si l'ale in affia l'ipogrifo, che brami in vano avere o zucca o schifo. Prese nuovo consiglio e fu il migliore di vincer con altre arme il mostro crudo. Abbarbagliarlo vuol con lo splendore che era incantato nel coperto scudo. Vola nel lito, e per non fare errore, alla donna legata al sasso nudo, lascia nel minor dito della mano l'anel che potea far l'incanto vano. Dico l'anel che Bradamante avea per liberar Rugger tolto a Brunello, poi per trarlo di man dal Cinarea, mandato in India per Melissa a quello. Melissa, come dianzi io vi dicea, in ben di molti adoperò l'anello, indi l'avea a Rugger restituito, dal qual poi sempre fu portato in dito. Lo dà ad Angelica ora, perché teme che del suo scudo il fulgurar non viete, e perché a lei ne sien difesi insieme gli occhi che già l'avean preso alla rete. Or viene al lito, e sotto il ventre preme ben mezzo il mar la smisurata cete. Sta Ruggero alla posta e lieva il velo, e parca giunga un altro sole al cielo. Ferì negli occhi l'incantato lume di quella fera, e fece al modo usato. Quale o troto o scaglion va giù pel fiume ca con calcina il montanar turbato, tal si vedea nelle marine schiume il mostro orribilmente riversciato. Di qua di là Rugger percuote assai, ma di ferirlo via non trova mai. La bella donna tutta volta priega chi invan la dura squama oltre non pesti. Torna per Dio, signor, prima mi slega, dicea piangendo, che l'orca si desti. Portami teco, in mezzo il mar mi anniega, non far che in ventre al brutto pesce io resti. Rugger, commosso dunque al giusto grido, slegò la donna e la levò dal lido. Metteremo ora a confronto la tecnica usata da Ruggero per sconfiggere l'orca con quella che sarà messa in atto da Orlando. Ruggero si è servito del vecchio sistema degli strumenti magici, lo scudo che era appartenuto al mago Atlante e che bastava scoprire per abbagliare l'avversario. Nello stesso tempo c'è da considerare la tecnica dell'Ariosto per raccontare questa lotta d'un mostro marino con un cavallo alato. È proprio l'opposto degli strumenti magici. Il suo segreto sta nel ritrovare, in mezzo al gigantesco e al meraviglioso, le proporzioni di un'aia, di un sentiero, di una pozza in un torrente dell'Appennino. Il muso del mostro marino è visto come quello di una cinghialessa o porca selvatica. L'ippogrifo gli s'avvicina, schivandone il morso come l'aquila che vuol beccare una biscia o come la mosca col mastino. L'orca tramortita ricorda le trote che si pescano intorbidando l'acqua con la calce. Ecco ora Orlando nella stessa situazione, tra l'orca e la fanciulla incatenata. Per lui, che non ha né cavalli alati né scudi magici, la tecnica deve essere un'altra. Gli basta una barchetta e un'ancora legata alla sua gomena. Entra con la barchetta nelle fauci dell'orca, le pianta l'ancora in gola, scappa sulla scogliera e tira la gomena. Il mostro è tratto a riva morto, vinto dalla forza e dall'astuzia congiunte. Quello che non cambia è la tecnica d'Ariosto. Le sue metafore stavolta riguardano i movimenti dei granchi nelle valli di Comacchio, il sistema dei minatori per sostenere le volte delle loro gallerie e i tori presi al laccio e domati. Ma quanto avea più fretta il paladino, tanto parea che men l'avesse il vento. Spiri o dal lato destro o dal mancino, nelle poppe sempre è così lento che si può far con lui poco camino, e rimanea talvolta in tutto spento. Soffia talor sia verso che gli è forza o di tornare o d'ir girando all'orza. Fu volontà di Dio che non venisse prima che il re di Bernia in quella parte, a ciò con più facilità seguisse quel ch'udir vi farò fra poche carte. Sopra l'isola sorti, Orlando disse al suo nocchiero: «Or qui potrai fermarte, e il battel d'armi, che portarmi voglio senz'altra compagnia sopra lo scoglio. E voglio la maggior gomona meco, e l'ancora maggior cabbi sul legno. Io ti farò veder perché l'arreco, se con quel mostro ad affrontarmi vegno». Gittar fe in mare il palischermo seco, con tutto quel che era atto al suo disegno. Tutte l'arme lasciò fuor che la spada, e ver lo scoglio sol prese la strada. Si tira i remi al petto, e tien le spalle volte alla parte ove discender vuole, a guisa che del mare o della valle, uscendo al lito, il salso granchio suole. Era nell'ora che le chiome gialle la bella aurora avea spiegate al sole, mezzo scoperto ancora e mezzo ascoso, non senza sdegno di Titon geloso. Fattosi appresso al nudo scoglio, quanto potria gagliarda man gittare un sasso, gli pare udire e non udire un pianto, sia all'orecchie gli vien debole lasso. Tutto si volta sul sinistro canto, e posto gli occhi appresso all'onde al basso, vede una donna nuda come nacque, legata a un tronco, e i piè le bagnan l'acque. Perché gli è ancor lontana e perché china la faccia tien, non ben chi sia discerne. Tira in fretta ambi i remi e s'avvicina con gran disio di più notizia averne. Ma mugiar sente in questo la marina, rimbombar le selve, le caverne, gonfiarsi l'onde, ed ecco il mostro appare, che sotto il petto ha quasi ascoso il mare. Come d'oscura valle umida scende nube di pioggia e di tempesta pregna, che più che cieca notte si distende per tutto il mondo e par che il giorno spegna, così nuota la fera, e del mar prende tanto che si può dir che tutto il tegna. Fremono l'onde. Orlando in sé raccolto, la mira altier, né cangia cor né volto. E come quel ch'avea il pensier ben fermo di quanto volea far, si mosse ratto. E perché alla donzella essere schermo e la fera a salir potesse a un tratto, entrò fra l'orca e lei col palischermo, nel fodero lasciando il brando piatto. L'ancora con la gomona in man prese, poi con gran cor l'orribil mostro attese. Tosto che l'orca s'accostò e scoperse nel schifo Orlando con poco intervallo, per ingiottirlo tanta bocca aperse che entrato un uomo vi saria a cavallo. Si spinse Orlando innanzi e se gli immerse con quella ancora in gola, e sì o non fallo col battello anco, e l'ancora attaccolle nel palato e nella lingua molle, sì che ne più si può calar di sopra né alzar di sotto le mascelle orrende. Così chi nelle mine il ferro adopra, la terra ovunque si fa via sospende, che subita ruina non lo cuopra mentre malcauto al suo lavoro intende. Da un amo all'altro l'ancora è tanto alta che non v'arriva orlando se non salta. Messo il puntello e fattosi sicuro che il mostro più serrar non può la bocca, stringe la spada e per quell'antro oscuro di qua e di là con tagli e punte tocca. Come si può, poiché son dentro al muro giunti i nemici, ben difender rocca, così difender l'orca si potea dal paladin che nella gola avea. Dal dolor vinta or sopra il mar si lancia e mostra i fianchi e le scagliose schene, or dentro vi s'attuffa e con la pancia muove dal fondo e fa salir la rene. Sentendo l'acqua il cavalier di Francia che troppo abbonda a nuoto fuor ne viene, lascia l'ancora fitta e in mano prende la fune che dall'ancora depende. E con quella ne vien nuotando in fretta verso lo scoglio, ove fermato il piede tira l'ancora a sé, che in bocca stretta con le due punte il brutto mostro fiede. L'orca a seguire il canape constretta, da quella forza ch'ogni forza eccede, da quella forza che più in una scossa tira chi in dieci un argano far possa. Come toro salvatico, ch'al corno gittar si senta un improvviso laccio, salta di qua, di là, s'aggira intorno, si colca e lieva e non può uscir d'impaccio, così fuor del suo antico almo soggiorno, l'orca tratta per forza di quel braccio, con mille guizzi e mille strane ruote segue la fune, e scior non se ne puote. Di bocca il sangue in tanta copia fonde che questo oggi il Mar Rosso si può dire, dove in tal guisa ella percuote l'onde che insino al fondo le vedreste aprire, ed orne bagna il cielo e il lume asconde del chiaro sol, tanto le fa salire. Rimbombano al rumor che intorno sode le selve, i monti e le lontane prode. Fuor della grotta il vecchio Proteo, quando ode tanto rumor, sopra il mare esce. E visto entrare e uscir dell'orca urlando e al lito trarsi smisurato pesce, fugge per l'alto oceano, obliando lo sparso gregge. E sì il tumulto cresce che fatto al carro i suoi delfini porre, quel dì Nettunno in Etiopia corre. Con Melicerta in collo ino piangendo, e le Nereide coi capelli sparsi, Glauci e Tritoni e gli altri, non sapendo dove, chi qua chi là, van per salvarsi. Orlando al lito trasse il pesce orrendo, col qual non bisognò più affaticarsi, che pel travaglio e per l'avuta pena, prima morì che fosse in sulla rena. Orlando era sicuro d'aver liberato Angelica. La slega e chi si ritrova davanti? Olimpia, che già lui aveva salvato un'altra volta. Abbandonata dall'ingrato Bireno, era stata anche lei catturata dai pirati dell'isola di Ebuda e incatenata allo scoglio. È destino d'Orlando compiere imprese disinteressate e lasciarsi scappare sempre la sua bella. Ma che ne è stato d'Angelica? Salvata da Ruggero, era volata via con lui in groppa all'ipogrifo. Con Angelica tra le braccia, Ruggero non tarda a dimenticare la sua bradamante. Angelica, la preda più ambita e inafferrabile, stavolta è in mano di qualcuno deciso a non lasciarsela scappare. Ruggero fa atterrare l'ipogrifo in un bosco di Bretagna. S'affretta a togliersi la corazza. Si volta. Angelica non c'è più. Troppo tardi ricorda che, mentre lottava col mostro marino, le aveva messo al dito l'anello magico perché non dovesse soffrire dell'abbagliante splendore dell'elmo. Adesso è bastato ad Angelica mettersi l'anello in bocca per rendersi invisibile e fuggire. Quanto a Orlando, uccisa l'orca, si trova a dover fronteggiare gli isolani di Ebuda, che, anziché essergli grati d'averli liberati dal mostro, temono le vendette delle divinità marine e vorrebbero uccidere lui per propiziarsele. Orlando ne stermina una trentina a colpi di Durlindana e poco dopo arriva a fare il resto la spedizione dell'irlandese Oberto, re di Bernia. Oberto era da tempo in viaggio per mettere fine a quel barbaro scempio di fanciulle. Vede Olimpia appena liberata e se ne innamora. La poverina, abituata ogni volta a cadere dalla padella nella brace, esce di scena con l'augurio d'Orlando di non doverla andare a liberare una terza volta. era il bel viso suo, quale esser suole da primavera alcuna volta il cielo, quando la pioggia cade e a un tempo il sole si sgombra intorno il nubiloso velo, e come il rosignuol dolci carole mena nei rami alor del verde stelo, così alle belle lacrime le piume si bagna amore e gode al chiaro lume. E nella face de begli occhi accende l'aurato strale, e nel ruscello amorza che tra vermigli e bianchi fiori scende, e temprato che là tira di forza contro il garzon, che né scudo difende, né maglia doppia, né ferigna scorza, che mentre sta a mirar gli occhi e le chiome, si sente il cor ferito, e non sa come. Le bellezze d'Olimpia eran di quelle che son più rare, e non la fronte sola, gli occhi e le guance, le chiome avea belle, la bocca, il naso, gli omeri e la gola, ma discendendo giù dalle mammelle, le parti che solea coprir la stola fur di tanta eccellenzia, canteporse a quante n'avea il mondo, potean forse. Vinceano di candor le nievi intatte, ed eran più cavorio a toccar molli, le poppe ritondette parean latte che fuor dei giunchi allora allora tolli. Spazio fra lor tal discendea, qual fatta esser veggian fra piccolini colli l'ombrose valli in sua stagione amene, che il verno abbia di nieve allora piene. I rilevati fianchi e le belle anche, e netto più che specchio il ventre piano, pareano fatti e quelle cosce bianche da fidi attorno, o da più dotta mano. Di quelle parti debbo vi dire anche che pur celare ella bramava in vano. Dirò insomma che in lei dal capo al piede quant'esser può beltà tutta si vede. Se fosse stata nelle valli idee vista dal pastor Frigio, io non so quanto Venere se ben vincea quell'altre dee portato avesse di bellezza il vanto, né forse Ito saria nelle Amiclee contrade esso a violar l'ospizio santo, ma detto avria: con Menelao ti resta, Elena pur, ch'altra io non vo che questa. E se fosse costei stata Crotone, quando Zeus l'imagine far volse, che pur dovea nel tempio di Ionone, e tante belle nude insieme accolse, e che per una farne imperfezione da chi una parte e da chi un'altra tolse, non avea da torre altra che costei, che tutte le bellezze erano in lei. Io non credo che mai Bireno nudo vedesse quel bel corpo, ch'io son certo che stato non saria mai così crudo che l'avesse lasciata in quel deserto. Coberto se n'accende, io vi concludo, tanto che il fuoco non può star coperto. Si studia consolarla e darle speme c'uscirà in bene, il mal ch'ora la preme, e le promette andar seco in Olanda, né finché nello stato la rimetta e ch'abbia fatto giusta e memoranda di quel periuro e traditor vendetta, non cesserà con ciò che possa Irlanda, e lo farà quanto potrà più in fretta. Per più rispetti il paladino molto si dimostrò di questo amor contento, coltre che il re non lascerebbe a sciolto Bireno andar di tanto tradimento, sarebbe anch'esso per tal mezzo tolto di grave e di noioso impedimento, quivi non per Olimpia, ma venuto per dar severa alla sua donna aiuto. Ch'ella non vera si chiarì di corto, ma già non si chiarì severa stata, perché ogni uomo nell'isola era morto, né un sol rimaso di sì gran brigata. Il di seguente si partir del porto, e tutti insieme andaro in un'armata. Con loro andò in Irlanda il paladino, che fu per gire in Francia il suo cammino. Appena un giorno si fermò in Irlanda, non valser preghi a far che più vi stesse. Amor, che dietro alla sua donna il manda, di fermarvisi più non gli concesse. Quindi si parte, e prima raccomanda Olimpia al re, che servi le promesse, ben che non bisognassi, che gli attenne molto più che di far non si convenne. Così fra pochi di gente raccolse, e fatto lega col re d'Inghilterra e con l'altro di Scozia, gli ritolse Olanda, e in Frisa non gli lasciò terra, e da ribellione anco gli volse la sua Selandia, e non finì la guerra che gli die morte, né però fu tale la pena ch'al delitto andasse eguale. Olimpia Oberto si pigliò per moglie, e di contessa la fe gran regina. Abbiamo trasmesso la settima puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.